voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Speciale Paese Reale. Ultimo appuntamento di questa serie speciale di voci d'impresa dedicato a raccogliere le voci delle imprese familiari italiane che in questo periodo difficile sviluppano il proprio lavoro e le proprie iniziative sia per contrastare la crisi che per fare sviluppo. In questo caso partiamo proprio da un'azienda che ha seguito la strada delle acquisizioni internazionali e ha appena annunciato un'acquisizione in India. Si tratta della Fila, settore matite colorate, pastelli, prodotti per la prima infanzia e il settore scolastico, fatturato 2011 sopra i 200 milioni di euro, guidata da Massimo Candela. Cominciamo a premettere che, grazie a Dio, per noi non è un momento di crisi, perché il 2011 sarà il miglior anno della storia, come peraltro lo fu il 2010, per cui noi realizzeremo sia dal punto di vista di fatturato che dal punto di vista di EBITDA, realizzeremo quanto avevamo previsto a budget e anzi qualcosa meglio. Detto ciò, questo è per quanto riguarda la vostra punto di partenza, perché se lei mi dice in un momento certo. Dopodiché la crisi mi può sicuramente ci può influenzare da un punto di vista, come dire, psicologico, perché ovviamente come azienda cerchiamo magari di essere un po' più attenti sul lato costi, cerchiamo di essere magari un po' più attenti nell'investire nello stock, nel magazzino, cerchiamo di essere un po' più attenti al lato investimenti, ma è più quasi a livello di inconscio che non da un punto di vista quantitativo, perché il nostro anno è andato benissimo. Lei pensi, le do un dato, sul mercato italiano noi chiudiamo l'anno crescendo del 7% per un bene di largo consumo, noi come azienda. Il mercato è un mercato stabile, se non in leggerissima contrazione, per cui per Fila non si può parlare di un anno di crisi. Certamente il nostro settore sta selezionando i player, è un settore molto vecchio, per cui è un settore che deve concentrarsi, quindi c'è un grande processo di selezione davanti e questo crea delle opportunità. Secondo me Fila si è mossa molto bene in questi anni, per cui in questo momento le opportunità le sta gestendo, le sta cavalcando. Ecco, tra le opportunità c'è la vostra, in realtà, per come vi siete mossi, voi avete fatto una strategia ormai da tempo di aprirvi ai mercati internazionali, di andare all'estero, avete fatto acquisizioni importanti su alcuni mercati e poi ne avete fatto ultimamente una. Dunque, la nostra strategia è abbastanza semplice. Noi intanto già oggi il nostro fatturato è realizzato per il 70% all'estero, quindi con questa acquisizione in India la percentuale addirittura cresce. La nostra strategia è molto semplice, noi investiamo in aziende di produzione, perché questo per noi è un aspetto fondamentale per realizzare la nostra strategia a livello globale, e per noi era indispensabile avere una produzione in India, in quanto il nostro settore è piuttosto, come dire, complicato dal fatto che esistono delle barriere all'ingresso in diversi paesi, con la Cina, dove noi produciamo una buona parte dei nostri prodotti, e quindi avevamo bisogno di un paese competitivo e che non avesse questo tipo di limitazioni. Quindi l'India per noi rappresenta un futuro punto di produzione strategico. E quindi voi adesso siete entrati con una partecipazione che avete però in programma anche di aumentare, o comunque c'è la possibilità che l'aumentiate? Direi una certezza, abbiamo solo bisogno. Abbiamo deciso di fare questa operazione in due step perché l'azienda, da un punto di vista amministrativo, bisogna fare diversi investimenti. Abbiamo bisogno di renderla IAS compliant, abbiamo bisogno insomma di svolgere alcuni passi indispensabili, e quindi abbiamo preferito fare un ingresso a due stadi. Ho capito. Senta, e l'India come paese per un imprenditore italiano, per gli imprenditori italiani, com'è? Può essere un paese molto interessante? Se ne parla meno di quanto si parli, per esempio, ovviamente della Cina, eccetera? Ma dunque, personalmente sono convinto che nel giro di 5 anni si parlerà più di India che non di Cina. È un paese che a me piace moltissimo, è un paese più facile intanto della Cina, perché si parla correntemente l'inglese, e c'è una cultura inglese chiaramente percepibile quando si è lì. C'è uno sviluppo enorme in atto, è uno sviluppo interno, mentre la Cina è un paese che ha, direi, un po' supportato la crescita globale con le esportazioni, l'India è un mercato invece molto più concentrato sul proprio sviluppo interno, è uno sviluppo che si percepisce nel momento in cui si atterra e si visitano le città. È uno sviluppo dichiarato anche dal governo, perché nel nostro settore stanno aumentando la scuola dell'obbligo, il tasso di alfabetizzazione, per cui rappresenta un'opportunità incredibile per le aziende italiane. Ecco, per voi in particolare è un mercato con dei numeri molto interessanti. Sì, dei numeri molto interessanti, non solo, ma anche per il fatto che per il momento la concorrenza è rappresentata da aziende indiane e non dai nostri tradizionali concorrenti storici, per cui riteniamo che oggi direi che veramente chi primo arriva probabilmente meglio si accomoda, perché bisogna raccogliere delle opportunità importanti. Come vi siete mossi da un punto di vista economico? Cioè, quanto vi siete finanziati? Avete chiesto aiuto o cosa? Io devo dire, io ho fatto una scelta importante all'inizio, cioè pur avendo questa azienda, diciamo, nell'ambito della famiglia, io rappresento la terza generazione. Nel 99 ho deciso di aprire il capitale a un socio, devo dire, dopo 10 anni eccezionale, che è stata Banca Intesa. Loro ovviamente hanno svolto il loro ruolo di investitori, come dire, cercando di supportare la crescita. L'azienda produce un flusso di cassa rilevante e ogni progetto viene finanziato in base, come dire, ai parametri che noi riteniamo di poter sostenere, quindi noi abbiamo accesso al credito, ma in misura assolutamente, come dire, sana ed equilibrata, nel senso che nel 2011 l'azienda ha un rapporto EBITDA posizione finanziaria 1-2, quindi è un rapporto assolutamente sostenibile, quindi il fatto che ci sia un socio finanziario all'interno della compagine azionaria ha dato un grosso supporto psicologico, in particolare perché il socio finanziario era una banca. Da un punto di vista invece tangibile o quantitativo, direi che loro fanno il loro mestiere, noi il nostro, e abbiamo fortunatamente portato a casa dei risultati importanti per entrambi. Il gruppo Bertolaso, con 130 anni di storia nel settore enologico e in quello dei distillati, si occupa di progettazione e realizzazione di impianti di imbottigliamento di vini, distillati e bevande di frutta, in Italia e sul mercato internazionale, con un export pari all'85%. Oggi il gruppo è diretto da Luigino Bertolaso. La ricetta contro la crisi è quella di far bene il proprio mestiere. Certo. Lì nonno e papà hanno insegnato un'etica molto, molto rigida, cioè dare 100, prendere 100 per dare 100. E questa è una cosa che può valere anche adesso, un insegnamento che lei che io ho sempre rispettato questa legge bellissima. Anche qui, anche ultimamente, avete ricevuto un premio. Premio dell'innovazione. Ne abbiamo ricevuto uno dall'Associazione Industriali di Verona, e qui a Milano invece abbiamo ricevuto un premio per la ricerca. Quindi questa è un'altra, diciamo, un'altra ricetta per la crisi, cioè continuare a inventare. Dunque, guardi, la ricerca e innovazione è una cosa essenzialissima, perché senza questo non si è mai imbarcato in mano, cioè arrivare secondi non vuol dire niente. Noi siamo sempre arrivati primi perché per la ricerca abbiamo un ufficio tecnico molto molto ben preparato, sono quasi una cinquantina di persone tra ingegneri e tecnici, i quali studiano continuamente le novità, sono a contatto col cliente per avere notizie e poi metterle in pratica. Questa è un'arma vincente. Nei momenti di crisi io sono sempre stato un po' ardito. E nella crisi, mi sembra, degli anni 80, se non mi ricordo, 85, io ho comprato delle macchine utensili. Ho fatto dei grandi investimenti in momenti di crisi. In questo momento di crisi, l'anno scorso abbiamo preso quasi 2 milioni di macchine utensili nuovi, e approfittando anche del mercato, in quanto che con questa crisi enorme siamo riusciti ad avere dei prezzi molto molto buoni. E adesso, in questo momento di crisi, abbiamo intenzione di allargare il nostro capannone. Nella vita ci sono sempre stati alti e bassi. Nella mia lunga vita di 63 anni di lavoro io ne ho visti di tutti i colori, perciò sono arrivato a questa età dove praticamente abbiamo il portafoglio ordini che è ora e fino al mese di aprile, maggio del prossimo anno, perciò io ho sempre avuto fiducia. E per chiudere questi appuntamenti speciali di Voci d'Impresa dedicati al paese reale, sentiamo non un imprenditore, ma un docente. Guido Corbetta, che è professore ordinario di strategia aziendale e titolare della cattedra AIDAF, Alberto Falk. In particolare cura l'osservatorio AUB sulle aziende familiari, che si occupa della rilevazione delle strutture, delle dinamiche e delle performance di tutte le aziende familiari italiane con ricavi superiori a 50 milioni di euro. Professor Corbetta, in questa serie speciale di Voci d'Impresa noi abbiamo parlato con diverse aziende familiari che ci hanno raccontato in questo momento di difficoltà che cosa stanno facendo. La maggior parte di loro si sta muovendo, devo dire, molto attivamente, soprattutto verso i mercati esteri internazionali. Lei, dal suo osservatorio privilegiato, ha questo tipo di sentore per quanto riguarda le aziende italiane? Ma diciamo, il nostro osservatorio ci consente di dire che da un lato è indubbio che c'è qualche azienda che non sta andando bene, quindi che ci sono ovviamente una polarizzazione dei risultati, quindi c'è qualcuno che non va bene, quelli invece che come dire, stanno cercando di fronteggiare la crisi con buoni risultati sono tutte aziende molto vivaci, quindi che sono impegnate nello studiare l'ingresso in qualche mercato nuovo, sono impegnate nello studiare e nel realizzare eventualmente qualche acquisizione e sono impegnate anche in programmi importanti di riorganizzazione interna, perché sicuramente si stanno rendendo le aziende più efficienti. A questo proposito, per rendere le aziende più efficienti e le riorganizzazioni interne, voi che cosa avete notato in questi 3 anni di osservatorio AUB per quanto riguarda i cambiamenti nell'organizzazione e nell'atteggiamento delle imprese familiari? Ma guardi, noi registriamo mediamente circa un 7-8% di aziende che ogni anno cambiano leader, e quindi vuol dire che diciamo, ci sono un certo numero di aziende che ogni anno cambiano proprio l'assetto, come dire, di vertice dell'azienda. La seconda cosa che si nota invece è che questi interventi di per rendere più efficiente l'azienda non sono essenzialmente interventi di riduzione del personale, perché questo, diciamo, sulle imprese, le imprese familiari tendono ad essere più, come dire, più resistenti sulla riduzione del personale, tendono ad essere più lenti sulla riduzione del personale, anche perché spesso sono localizzate in comunità locali dove alla fine, diciamo, si cerca di mantenere buoni rapporti, mentre si rendono certamente molto più efficienti i processi, quindi sono aziende più veloci, diciamo. Quindi si cerca di lavorare con anche coi dipendenti e per essere più veloci, più reattivi ai cambiamenti, più come reattivi su nuovi prodotti, più reattivi sulle nuove tecnologie, più reattivi sui siti, più reattivi sulle azioni commerciali. Cioè, direi che la parola reattività dice bene, diciamo, di tante aziende familiari che stanno anche provando a inventare, come dire, delle cose nuove. Senta, quali sono invece ancora i punti deboli delle aziende familiari italiane? Dunque, la situazione, per quello che si può registrare, è che c'è ancora, come dire, una certa fatica ad aumentare il numero dei quarantenni, cinquantenni al vertice. Quindi abbiamo ancora un buon numero di imprese familiari dove al vertice ci sono persone con più di 70 anni. Stiamo parlando, mi pare, oltre il 15%. Quindi sempre il problema del passaggio generazionale. Ma questo, diciamo, vuol dire, ecco, però tenete conto che l'85% invece l'ha già affrontato, no? Quindi c'è sempre un certo numero di imprese che ha questo problema. Poi c'è un certo numero di imprese invece che mi pare fa fatica a gestire una dimensione maggiore, cioè noi abbiamo visto che le performance migliori, noi guardiamo solo aziende dai 50 milioni in su, tutte le aziende italiane da 50 milioni in su, e le performance migliori le hanno le aziende intorno, diciamo, agli 80-90 milioni, con un amministratore unico in alcuni casi o comunque con un amministratore delegato unico, con un consiglio d'amministrazione composto prevalentemente da interni e quindi con una struttura manageriale ancora molto come dire, ridotta. Quando le dimensioni aumentano, quando cominciano ad entrare in azienda magari degli amministratori delegati anche non familiari, quando nel consiglio d'amministrazione si comincia a far entrare anche persone esterne, i risultati, diciamo, non hanno lo stesso, non hanno, si riducono. Allora questo cosa vuol dire a nostro avviso? Vuol dire non che non bisogna fare questi passaggi, ma che bisogna imparare a gestire una dimensione maggiore. Ecco, questo secondo me è un limite che dobbiamo superare, credo anche, diciamo, per la continuità di queste aziende, perché altrimenti il rischio, come è successo anche quest'ultimo anno, che poi è un rischio, voglio dire, per certi versi anche accettabile, è chiaro che alcune aziende potrebbero essere cedute a investitori stranieri o ad aziende straniere, il che non è un male, a condizione che ci siano poi qualche azienda italiana che ha i muscoli, la forza per poter fare operazioni di acquisizione sull'estero. Le interviste sono di Alessandra Scaglioni e Anna Marino. Voci di Impresa vi dà appuntamento, come sempre, a domenica prossima e durante il periodo di Natale e Capodanno anche dalle 6:15 del mattino, dal lunedì al venerdì.